siamo messi sulle punte dei piedi e ritrovati sui pensieri di ieri. Sconosciuti e presenti, due diversi in mezzo a tanti. Ti vedo ridere per tutte le cose, come se ridere allungasse la vita. E non c'è un soffio di vento, potessi stare qui fino a domani. Bevo un altro sorso, vado senza mani, lungo il tuo percorso è già domani. Forse ho corso troppo, forse no. Schiavo di un sorriso, vado già spedito, sempre più deciso, t'ho imparato. Non ho corso troppo, neanche un po'. È la mia mente che decolla leggera, è la fortuna di incontrarci stasera. Un po' sorpresi, un po' no, ti troverei anche in mezzo a un labirinto. E vieni a prenderti il mio tempo migliore, tiriamo dritti fino al mare il colore. La sera è per noi e sembra un abito importante. Vieni in mio soccorso, sento le tue mani addosso, perdo il filo del discorso, forse ho corso troppo, forse no. Bevo un altro sorso, vedo il mondo capovolto, come vedi ti ho rincorso, non si è fatto tardi neanche un po'. Bevo un altro sorso, vado senza mani, lungo il tuo percorso è già domani, forse ho corso troppo, forse no. Schiavo di un sorriso, vado già spedito, sempre più deciso, t'ho imparato, non ho corso neanche troppo un po'. Bevo un altro sorso, vedo il mondo capovolto, come vedi ti ho rincorso, non si è fatto tardi neanche un po'. Oh, vieni in mio soccorso, sento le...